Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno cari amici, vi stavamo aspettando, noi siamo pronti, abbiamo Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica, Laura Banossi in redazione, il nostro sommario e il dottor Franco Confalonieri, il nostro ospite del venerdì, dottore. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Sommario. Il bello di pedalare, è l'ora dello spuntino, itinerari di benessere. Sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone, neanche da bere sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone, neanche da bere. Dottor Confalonieri, tutti in sella, però fa caldo, eh? Però con questa musica si parte belli carichi, già ad alte frequenze, molto bene. Anche Carmelo Lauricella mi raccontava che domenica è uscito in bici, però ha avuto molto caldo, rischiava un colpo di calore. Sì, diciamo che questo è un momento in cui magari tanti dicono, beh, mettiamoci in bicicletta un po' perché c'è più tempo, un po' perché domani parte il Tour de France e quindi ci sentiamo tutti un po' più ciclisti. È chiaro che il caldo è un bel nemico della fatica in genere, della fatica all'aria aperta in particolare, quindi va affrontato con molte precauzioni. E con? Gradualità. 800-24-0024, oggi ci rivolgiamo, dottor Confalonieri. Ci rivolgiamo a tutti coloro che già vanno in bicicletta e quindi vogliono consigli, perché le cose vanno bene, perché le cose non vanno bene, vogliono aumentare, vogliono diminuire il lavoro, ed anche a coloro che invece vorrebbero approfittare di questa stagione estiva per cominciare ad andare in bicicletta o eventualmente in mountain bike. Non tralasciamo nessuno. In linea con noi Fabio Vedana, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta, ciao Franco. Esperto di ciclismo e allenatore della nazionale svizzera di triathlon che vince un sacco, vero Fabio? Sì, per fortuna stiamo veramente ottenendo dei grossi risultati e sono molto soddisfatto, insomma, del team e dell'esperienza che sto facendo. Lo credo. Allora, vediamo se i nostri ascoltatori sono soddisfatti del loro rapporto con la bici, che qualcuno invece approfitterà proprio delle vacanze per farsi dei giretti o altri ancora per allenarsi. Oggi vogliamo raccogliere proprio anche da voi dei suggerimenti, itinerari per andare in bici, ma anche itinerari allenanti per chi con la bici ha già un rapporto, no, collaudato. Dottor Confalonieri. La mia domanda ormai classica, oggi un po' particolare, vorrei sapere dai nostri ascoltatori quando hanno cominciato ad andare in bicicletta, perché questa attività è una delle più variabili come momento in cui cominciare, c'è chi comincia da bambino e chi comincia già da anziano, e perché hanno cominciato, perché magari partendo proprio dalle esperienze dei nostri ascoltatori possiamo aiutare qualcuno che non ha ancora cominciato, che è andato in difficoltà. Quindi quando avete cominciato e perché? Raccontatecelo. Dottor Vedana, io ti do del tu, va. Fabio, io volevo che tu aggiungessi anche delle domande tecniche, perché tanti problemi nascono proprio perché non si usa correttamente la bici, non si sceglie la bici adatta, quindi? Secondo me la cosa più importante è sempre come regolo la mia bicicletta e soprattutto come interpreto il mio allenamento, cioè facendo una valutazione del mio livello di base e dove voglio arrivare e quanto tempo ho a disposizione. Sono un po' queste le domande più frequenti e alle quali, dando una risposta, si può veramente spianare la strada per andare anche in salita. Per ottenere dalla bicicletta un piacere, perché la bicicletta è veramente un piacere e un godimento proprio. 800-24-0024, questo è il nostro numero verde, i messaggi come sempre 349-238-6666. Una mela al giorno. Spuntini, questa potrebbe essere l'ora giusta. C'è una ricerca che parla molto bene di questi piccoli mini pasto da assumere a metà mattino o metà pomeriggio. Secondo la ricerca condotta presso il Food and Nutrition Database Research del Michigan, questi piccoli spuntini aiuterebbero i ragazzi a mantenersi in forma, a condizione che diventino un modo per ripartire le calorie durante la giornata e non un surplus calorico. Ne parliamo insieme al dottor Giuseppe Fattati, che è tornato a trovarci, per

un rapporto con la natura diverso da quello che consente la corsa, proprio perché i percorsi che possiamo sviluppare, gli itinerari che possiamo sviluppare sono molto più lunghi e molto più variegati, diciamo che appaga molto anche da questo punto di vista del rapporto con se stesso da una parte, col territorio e con la natura dall'altro, e quindi diventa spesso una filosofia. Ho cominciato, ci scrive Roberto, mountain bike a 43 anni, ne ho 47, ho cominciato per scherzo, ma mi ha cambiato la vita, è stupenda. Domenica scorsa ho fatto i 4 passi dolomitici, fantastico. Fabio, sei d'accordo con la lettura che il dottor Confalonieri fa della bici, del ciclismo in genere, questa dimensione che ti porta a, così, a stare a contatto con la natura, ma anche a misurarti con te stesso? Sì, sono sicuramente i valori più importanti e quelli che danno più soddisfazione per chi fa ciclismo. Aggiungerei anche un certo piacere proprio nel sentire il rumore dell'aria che ti attraversa le orecchie. Questa è una delle caratteristiche che il ciclista proprio utilizza come mezzo di piacere ed è veramente molto appagante. Noi andiamo ad Alberto che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno, complimenti a tutti. Grazie. Io ho qualche domanda. Allora, vado normalmente a correre, adesso farò anche per non annoiarmi sempre con la corsa, ogni tanto prendo le mie vecchie biciclette scassate, condivido con, magari con mia moglie, faccio 20-30 km con queste bici su per gli argini, cioè cose di campagna, pochissimo. Adesso però mi piacerebbe provare a implementare un po' questa attività. Allora, le dico i miei problemi. Vado a vedere le biciclette, ce ne sono da 100 euro a 800, a 2000 euro. Ecco, poi, bravo. Aspetta, questa è una. Bici. Allora, magari con differenze di un chilo, vedi, questa pesa 3 kg, quella 5, vabbè, ho capito, ma 2 kg mi fanno questa differenza. Poi, lo farei come amatore. Mi chiedo perché non avevo le biciclette con questo manubrio tutto. Senta, però, Alberto, intanto facciamo così, Alberto, noi la richiamiamo e intanto diciamo, perché non si sente, per se ha da fare numerose domande, già la prima, Fabio, mi piace molto, perché anch'io quando vado a vedere le bici dico, ma è possibile? Ecco, per uno che vuole andare in bici, farsi un po', no, qualche gita, ma senza esagerare, e vuole una bici adatta, quanto deve spendere, come si fa soprattutto a scegliere la bici giusta? Ma penso che per chi voglia cominciare, per chi voglia cominciare ad apprezzare il gusto di utilizzare la bicicletta, serva più che altro una city bike, cioè una bicicletta abbastanza ibrida che ti permetta di fare sia dei percorsi su strada abbastanza agevolmente che dei piccoli percorsi fuori strada, quindi se faccio la mia gita domenicale o infrasettimanale posso sia affrontare quindi la strada che una piccola, un piccolo sentiero se mi trovo fuori città. E qua, come giustamente ha detto il nostro radioascoltatore, ci troviamo poi di fronte alla scelta che parte appunto da dei mezzi da 60, 70, 80 euro fino ad arrivare a mezzi da 10.000 euro e in mezzo c'è di tutto. Io consiglio comunque per una bicicletta con le caratteristiche che ho detto, che quindi sia innanzitutto sicura e che quindi abbia un telaio abbastanza resistente, abbia una componentistica con un minimo di qualità e che quindi abbia ma come faccio a capire? Come faccio a capire? Devo guardare un po' il prezzo, diciamo che chi più spende meglio spende. Ma no, un utilizzo medio va dalle 500 alle 600, alle 700 euro, posso già cominciare a prendere una city bike che abbia dei contenuti. Però una bella botta, eh? Sì, comunque devo avere un minimo di spesa di questo tipo, perché altrimenti se voglio affrontare un minimo di percorso fuori strada, assolutamente è necessario. Sì, è necessario perché la sicurezza è l'aspetto più importante. Se esco e comincio ad avere problemi alla forcella, comincio ad avere i freni che non hanno più, non offrono più sicurezza, quello che potrebbe essere un piacere può diventare poi Poi guardiamo la posizione anche in bici, quanto deve essere quando mi metto in sella, dove devono arrivare i piedi, se guarderemo tutti questi dettagli. Però Alberto è tornato. Alberto, ci sentiamo meglio? Sì, sì, benissimo. Allora mi sa che Alberto orientativamente Fabio Vedana ci ha detto bisogna spendere, inizia la qualità, inizia intorno ai 500 euro. Però Anch'io ho detto la stessa cosa. Vabbè, mi sa che io e lei andremo a piedi. Comunque, vabbè, allora, seconda domanda. Ecco, completo con, perché il quadro, siccome io vorrei dedicargli poi del tempo e anche mettermi, insomma, metterci l'energia come ho fatto per altre cose, quindi anche andarmi a cercare dei bei percorsi cicloturistici, ce ne sono in Lombardia parecchi. Sì, Fabio, Alberto, deve venire alla domanda però. La perché... domanda è, ok, perché devo prendere una di quelle bici col manubrio tutto curvo, tutti storti? Io ho anche problemi di schiena e ho un ginocchio. Io mi dico, ma perché deve esserci quella posizione completamente giù? Poi se prendo una city bike con un manubrio dritto, non so, sembra che tutti mi dicano no, poi lo cambierai, ti troverai male. Ma io allora chiedo, è così importante questo manubrio tutto storto, la posizione molto bassa? O è una questione, Alberto, di c'è anche l'opportunità di non andare in bici, perché ci sono anche altri sport, perché mi vedo che la bici le presenta diversi problemi, dal costo, dalla scelta, al manubrio, magari non c'è feeling, ecco. Comunque, Fabio, questi manubri che vanno in giù, lui ha mal di schiena, gli sembra di avere una posizione innaturale, d'altra parte gli dicono se prendi la city bike poi la cambi, rapidamente per passare poi a Francesco da Vicenza, cosa possiamo rispondere ad Alberto? Io scherzavo, ho detto lasci perdere la bici, ma tu sicuramente hai delle indicazioni più intelligenti. Ma no, io penso che sia un po' snob l'ambiente del ciclismo, soprattutto del ciclismo su strada, quello da corsa, che quindi predilige questi manubri che sono fatti per la performance e quindi mi permettono di assumere una posizione più aerodinamica che mi permette quindi di avere una velocità maggiore. Sì. Però io per un neofita come il nostro radioascoltatore consiglio sempre una city bike o anche una mountain bike, che quindi hanno un manubrio dritto che mi permettono una posizione più eretta del nostro tronco e quindi mi permettono di avere meno carico sulla zona lombare e sulla zona cervicale, che sono poi le due zone della colonna vertebrale che ci danno più problemi se abbiamo uno scorretto posizionamento sulla stessa. Vado da Francesco, che ci chiama da Vicenza. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascoltavo quello che stavate dicendo. Niente, io volevo intervenire per dire che io mi sono comprato una bici da corsa, la mia prima bici da corsa l'ho pagata 200 euro. Sì. Quindi ho comprato una bici usata, grazie a questa e un'alimentazione un po' più corretta ho perso 30 kg. Caspita! Bisogna sempre capire quello che la gente vuole fare in cima alla bici, cioè se uno vuole fare il giretto del dopo gelato per sentirsi più leggero è una cosa, se uno vuole fare la bici come sport, lì avete degli esperti, è tutt'altra cosa, quindi un allenamento di un'ora e mezza, due ore, io lo faccio tre volte alla settimana con la fidanzata che correva, poi ha preso la passione della bici. Francesco, il dottor Confalonieri lo diceva come uno sport solitario, eccetera. Invece anche dai messaggi e dalle testimonianze molti dicono vado con mia moglie in bici, ecco, quindi si può andare in coppia in bici, Francesco? Sì. No, veramente è una fortuna. E poi lei correva, ad esempio, velocemente correva e ha visto che più risultati con la bicicletta, perché è un lavoro che si fa per più tempo e si consuma di più, sì, io devo dire così. Poi sinceramente i mal di schiena, quelle cose lì, dovete andare da qualcuno di fiducia, come ho fatto io, che ad esempio per la mia fidanzata le ha prestato la bicicletta e le ha dato una bicicletta che avesse le misure giuste. Ecco, le misure giuste. Vuol dire il male da schiena, vuol dire regolare il manubrio più avanti, più vicino, insomma fidatevi e poi mettetevi a fare strada, perché se la bici è delle vostre misure riuscite a scaricare meglio la forza e la potenza e vi divertite di più perché vedete i risultati, perché con la mountain bike a fare il giretto del paese non si fa niente, secondo me. Grazie Francesco. Dottor Confalonieri. Ma diciamo che nella telefonata di Francesco c'erano molte indicazioni interessanti, innanzitutto unire la bicicletta con qualche correzione delle abitudini alimentari è un mezzo efficacissimo per perdere peso, non dico i 30 kg di Francesco, però indubbiamente il ciclismo è lo sport più adatto per soggetti anche fortemente in sovrappeso che vogliano perdere rapidamente il peso stesso. Perché? Perché è uno sforzo aerobico, perché è uno sforzo che si può prolungare nel tempo, quindi con un utilizzo prevalente dei grassi come fonte energetica, e soprattutto perché è un tipo di sport che non sovraccarica le articolazioni, che è il problema base per il soggetto in sovrappeso che vuole cominciare a fare sport. E anche l'indicazione che lui dava, un'ora e mezza, due ore, tre volte alla settimana, mi sembra che sia perfettamente in linea con un programma equilibrato per andare in forma e perdere peso. Ciò non toglie che si possa cominciare con la mountain bike dopo il gelato, perché voglio dire, già la mountain bike dopo il gelato, soprattutto nei paesini del Veneto più che a Milano, è molto di più che nulla. E siccome l'allenamento è allenante nel momento in cui ci porta a fare qualcosa di più rispetto a prima, per chi deve cominciare va benissimo anche qualche minuto in mountain bike. Daniele ci manda una richiesta. Per favore, potreste raccomandare ai ciclisti di usare e verificare le luci di sera? Un altro ascoltatore mi suggerisce di invitare all'uso del casco. Allora, voglio leggervi un messaggio che ci manda Fiorenzo da Bergamo. Come sarebbe a dire con la mountain bike non si fa niente? Fateci 4 ore con 2000 metri di dislivello su sentieri e sterrate e poi ne riparliamo. Ma, dottor Confalonieri, mi sembra, io ho capito che lei ha detto che è allenante. No, anzi, io contraddicevo il nostro ascoltatore dicendo che soprattutto per iniziare, anche qualche minuto dopo il gelato, il mountain bike è già allenante. Figuriamoci un allenamento vero. Allora, vi siete quindi capiti male. Ma io ne approfitto per chiedere a Fabio, facciamo un po' a livello di allenamento un confronto tra mountain bike e bici da strada? Ma bisognerebbe fare un distinguo se lo faccio agonisticamente o invece lo faccio con uno scopo prettamente ludico o turistico. Facciamo tutte e due rapidamente, che così prendiamo tutti i nostri ascoltatori. Se lo facciamo prettamente dal punto di vista agonistico, gli agonisti del mountain bike ad alto livello utilizzano molto la bici da strada per fare un lavoro di endurance. Quindi endurance vuol dire di resistenza di lungo periodo. E la differenza sostanziale in allenamento ad alto livello o comunque agonistico tra le due specialità è che la mountain bike necessita di capacità tecniche di guida ben differenti di quelle della strada, in quanto il percorso è sempre variato e variabile a seconda degli imprevisti che mi capitano sul sentiero piuttosto che in mezzo al bosco, piuttosto che e quindi questo è l'aspetto più importante per quanto riguarda l'allenamento tecnico della guida. Per quanto riguarda invece l'allenamento prettamente metabolico, diciamo che oltre al fatto della resistenza che viene sviluppata con la bici da strada, nella mountain bike bisogna dare più importanza all'aspetto dell'allenamento della forza e quindi fare più lavori su salite, salite di media pendenza con frequenze di pedalata abbastanza basse, intendiamo intorno alle 45-50 pedalate al minuto. Questo è l'aspetto un po' più differenziante. Fabio, invece, per il neofita, bravo. Concludere con il neofita o comunque per quello che utilizza la bicicletta in termini prettamente turistici, la differenza tra le due come allenamento è appunto sempre l'aspetto più che altro tecnico, che quindi mentre la bici da strada, se vado su strada o su piste ciclabili, questo purtroppo è un po' una pecca del nostro paese, non ce ne sono molte, è più facile, è più intuitivo, è più immediato. La mountain bike invece nel percorso off-road, cioè fuori dalla strada normale, quindi della strada asfaltata, necessita di un minimo di competenze tecniche e quindi necessita di qualcuno che ci possa insegnare i rudimenti proprio della guida, quindi come gestire il peso in salita e in discesa del proprio baricentro, come impostare una curva, come impostare una salita molto ripida o una discesa molto ripida. Quindi diciamo che nella mountain bike necessita almeno di un tutor che ci segua almeno per le prime fasi, e qui ci sono parecchie associazioni che fanno anche questo, ci sono proprio dei maestri di mountain bike o degli accompagnatori turistici che sono ben formati per svolgere questo ruolo, mentre per la bici su strada è nettamente più istintivo e molto più facile. Tutti sanno pedalare, abbiamo tutti iniziato a pedalare in fase giovanile e quindi è un'abilità quasi primaria come quella di camminare o di correre. Dottor Confalonieri, ho visto che voleva intervenire. Sì, una brevissima integrazione. Molti cominciano con la mountain bike soprattutto perché ci consente di affrontare percorsi anche con un minimo di salita che se non siamo allenati facciamo fatica ad affrontare con la bici da strada. Ecco perché tante volte si consiglia di cominciare in mountain bike, proprio perché anche il soggetto in sovrappeso, poco allenato e che si affatica subito, riesce a superare il cavalcavia che invece fa fatica a superare con la bici da strada. Andrea dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Siamo in attesa di un suo commento, una domanda. Ci racconti lei? Ma io volevo raccontare la mia esperienza personale di passione verso il ciclismo, che è nata 36 anni fa sentivo che la domanda era cos'è stata la motivazione che ha portato a iniziare l'attività. E vivendo in campagna, vivendo sulle rive del lago, è tutto iniziato con la curiosità di vedere cosa c'era dopo la collina di fronte a me, e poi è una cosa che non è mai finita, la curiosità di continuare a vedere. Andrea, voglio leggerle il messaggio di Federico. La bici sono due ruote, dietro un cuore che spinge, davanti un cervello che guida. In mezzo ci sei tu, con la tua anima e il tuo altrove, e sei libero di andare, di curiosare, di scoprire e di conoscere. Penso che lei e Federico siate sulla stessa lunghezza d'onda di bici, di pedalata, di... Penso di sì, e volevo anche intervenire sul fatto della ciclismo come sfida con se stessi, che è verissimo, ma io ho trovato nella bicicletta anche un modo di conoscere persone. Ho conosciuto mia moglie in bicicletta, stiamo crescendo i figli un altro, vede, guarda, io sono molto contento perché, vedi, dottor Confalonieri, vede che la bici è veramente di coppia. Devo riflettere su questa visione. Lei rifletta. Un po'... Quindi Andrea, anche lei con sua moglie e i suoi bambini tutti in sella. Sul sellino, anzi. Grazie Andrea. Andiamo a Fabio dalla provincia di Imperia. Buongiorno Fabio. Buongiorno, sono Fabio da Sanremo. E niente, volevo rivolgere una domanda al mio omonimo, l'altro Fabio, per quanto riguarda un mio sogno. E io pratico ciclismo da anni, e sono tra virgolette uno scarso, uno di quelli che alle gran fondo arriva nei 100, 150, non di più. Parlo così magari così Fabio, l'altro Fabio memorizza. È un discorso un po' tra voi, è questo? No, Nicoletta, guardi, io la seguo tutti i giorni. Niente, adesso mi sono avvicinato alla corsa, cosa che non potevo fare per problemi di una frattura al calcagno molto grave che ho avuto 15 anni fa. Niente, mi sono avvicinato alla corsa. Il mio sogno era partecipare a un Ironman, che non è un film, è una gara che è molto lunga, dove c'è tanto da correre, tanto da andare in bicicletta, ma il mio scoglio principale, nonostante abiti a Sanremo, una città di mare, è il nuoto. Non so come uscire da quei 5 km di nuoto. C'è qualche trucco oltre a allenarsi tanto? Allora, due esperti, due consigli. Fabio. Purtroppo devo dire al nostro ascoltatore che i chilometri nell'Ironman non sono due, ma sono 3.800 metri, quindi sono quasi il doppio rispetto alla distanza che aveva preventivato. Io gli consiglio, se lo scoglio è quello dell'acqua, quello assolutamente di affidarsi a un buon maestro di moto, quindi a un buon istruttore di moto, per apprendere la corretta tecnica, perché al contrario della bici o della corsa, che sono dei gesti abbastanza naturali, istintivi, il nuoto non lo è, e quindi bisogna per forza, soprattutto se si apprende in tarda età, affidarsi a delle mani esperte nella formazione e nell'apprendimento del corretto gesto tecnico. Dottor Questo è il consiglio che gli do spassionato. Dottor Confalonieri, con lei abbiamo parlato tante volte di nuoto, eccetera. Ci sono possibilità di impararlo velocemente, seguiti, per arrivare a un livello tale per poter fare questa gara, questa competizione? Io vorrei incoraggiare Fabio, ci sono tante esperienze, anche vissute da noi personalmente. Non è troppo tardi né per imparare a nuotare né per mettersi in condizione di nuotare i 3.800 metri dell'Ironman, ovviamente ad un passo che non sarà rapidissimo. Peraltro poi l'incidenza della frazione nuoto in questa gara di triathlon così lunga è molto relativa, perché dopo bisogna pedalare per 180 e correre una maratona. Quindi direi, non si spaventi per il nuoto, si affidi a un istruttore e comincia a lavorare invece in modo sistematico sulla costruzione della maratona finale, che probabilmente gli creerà più problemi anche rispetto alla prima frazione di nuoto. Allora, intanto saluto Adriana da Milano. Adriana, buongiorno. Adriana, eccoci. Sì, buongiorno, siamo da Milano. Io porto un'altra testimonianza di ciclismo di coppia. Sì. Io ho quasi 38 anni, sono sempre stata molto sportiva, sono passata dalla ginnastica artistica al podismo in questi ultimi anni. e ho scoperto la bici da corsa circa 4 anni fa, quando con il mio compagno abbiamo realizzato un suo sogno, che non riusciva mai a trovare un compagno adeguato. Alla fine ci siamo trovati, abbiamo comprato 2 belle bici da corsa e siamo partiti da Milano con il nostro zainetto in spalla. Siamo andati per una volta a Moneglia, in Liguria, dove io ho casa, e facendo appunto questo lungo percorso di circa 270 chilometri, dividendocelo in 3 tappe con qualche piccola sosta, fermandosi a dormire dove capita, e abbiamo replicato l'esperienza nei 2 anni successivi, sempre scegliendo la Liguria come meta, ma cambiando itinerario. Una volta abbiamo fatto il Turchino, una volta la Scoffera, insomma. Ci cimentiamo in questi percorsi che non sono niente di impossibile, ma che consentono sia appunto, come dicevate prima, di integrarsi nei profumi, nelle realtà dei paesi che passando con l'autostrada non si vedono, sia di vivere un momento che è soltanto nostro. Ci guardano tutti come pazzi quando partiamo con le mutande nello zaino e andiamo e basta, però in realtà noi ce la godiamo tantissimo ed è una cosa che ci unisce moltissimo. Infatti, se per caso in questo momento fosse all'ascolto Francesco, lo saluto carissimamente come sempre, e so che molti altri possono capire questo senso di affinità anche attraverso, che si sviluppa e si cementa anche attraverso l'attività sportiva, perché poi da questo corriamo insieme, cioè uniamo le varie attività che erano prima delle attività individuali. Magnifico. Come può essere appunto il podismo, al senso dello stare insieme, che comunque è sempre... Grazie Adriana. Fabio, come la vedi tu? Adriana ci ha veramente aperto, ci ha descritto, ci ha dato dei suggerimenti. Bello questa idea di partire in coppia, mettere una mutanda dentro lo zaino e via. Su. Bellissimo, l'importante è trovare degli itinerari che evitino le strade con maggior traffico, e come ho accennato brevemente prima, è un problema della nostra nazione il fatto che noi non abbiamo comunque delle piste ciclabili dedicate agli amanti e agli appassionati delle 2 ruote sulla strada, quindi bisogna armarsi di esperienza, armarsi di cartina o di GPS per trovare le strade secondarie e periferiche che ci permettano di godere di questo, perché se andiamo in bici e a fianco ci sfrecciano continuamente auto ad alta velocità o dei camion, la sicurezza rovina la poesia del momento sicuramente. Allora, vi avevo anticipato che avremmo parlato, dato delle brevi indicazioni sul sellino, prostata, e alcuni di voi mi dicono è arrivato il momento. Sarebbe arrivato il momento con il professor Gentile, che stiamo cercando di raggiungere, ma la linea continua a cadere. Si cade anche dalla bici, cade anche la linea. Dottor Confalonieri, dato che la trasmissione sta andando avanti, poi magari il professor Gentile riusciremo a prenderlo in un momento più facile per il collegamento. Intanto, molti sono preoccupati. C'è da preoccuparsi quando inizia il sellino a diventare un problema, se ci sono dei sintomi, insomma, questa relazione da molti considerata pericolosa, è davvero pericolosa? Beh, indubbiamente è uno dei problemi, è uno dei, diciamo, dei fattori di rischio cronici legati alla bicicletta e al ciclismo, sono proprio le problematiche che possono localizzarsi a livello prostatico. Sono problematiche legate alla sollecitazione cronica, al microtraumatismo cronico, che ovviamente coinvolge la zona perineale, che può determinare problemi in particolare di prostatite, cioè infiammazioni a livello della prostata, tra l'altro favoriti dall'ambiente caldo-umido, che ovviamente si determina se pedaliamo in particolare in questa stagione vestiti correttamente da ciclisti. Queste problematiche possono essere in parte, ripeto, ridotte o prevenute attraverso la scelta di particolari sellini, per esempio sellini forati o sellini più morbidi o sellini conformati in un modo leggermente diverso, che vanno studiati ad hoc sulla nostra situazione anatomica, però non devono diventare il motivo per non andare smettere in bicicletta. Fabio, secondo la tua esperienza, tu che insomma sei anche allenatore della Nazionale Svizzera di triathlon e quindi proprio tratti con atleti che in sella ci stanno tanto tempo, qual è il tuo consiglio? Il mio consiglio è di trovare la posizione giusta si determina dall'esperienza e si determina anche attraverso delle semplici informazioni che possono essere quella di regolare soprattutto l'altezza della sella correttamente, in quanto se ho l'altezza giusta riesco a scaricare le forze nei tre punti di appoggio, cioè proprio quindi sul pedale, sulla sella e sulle braccia che si appoggiano al manubrio. Come regolare l'altezza giusta della sella? Per il neofito, comunque il consiglio più facile da seguire è quello di posizionarsi sulla sella e di mettere il tallone della scarpa sul pedale nella posizione più bassa. Ecco, in questa posizione la gamba deve essere quasi completamente distesa. Questo è un'indicazione pratica per stabilire la corretta altezza della sella. Inoltre, se poi faccio anche mountain bike, questa posizione deve permettermi comunque di toccare con la punta, con la parte anteriore del piede, il terreno. Questo per un fatto di sicurezza, perché in caso di imprevisto devo prontamente potermi, se sbilanciato, appoggiare a terra. Quindi io direi questa cosa è l'aspetto importante. Poi la regolazione dell'avanzamento, dell'arretramento della sella deve essere fatta seguendo soprattutto un indicatore, che è la pressione che sento proprio a livello perineale. Se sento troppa pressione, devo abbassare leggermente il sellino rispetto all'orizzontale, che è un po' invece lo standard canonico per quanto riguarda la regolazione del sellino stesso. Io quindi mi sembra che queste indicazioni, ma lo voglio chiedere se queste indicazioni sono utili a uno che di chilometri in bici ne ha fatti davvero tante. In linea con noi Alberto Fiorin. Ciao Alberto. Ciao. Appassionato di bici. Come ti posso presentare? Un appassionato di bici, uno che è più sulla bici che a piedi, sei autore di numerosi libri, oltre che protagonista di veramente grandi esperienze. Hai scritto Ciclovia del Danubio, da Passau a Vienne, Diclo Editore, e hai fatto delle imprese che hanno quasi dello straordinario. Tu che vieni da Venezia, la città in cui non si va in bici, ecco. Esatto. Sì, allora il bello della bicicletta è proprio quello, che puoi partire da casa e arrivare a ovunque, cioè fai le strade che normalmente percorri anche, diciamo, in allenamento o quotidianamente, poi a un certo punto invece di arrivare a uno stop, invece di andare a sinistra si va a destra e si scopre un mondo nuovo. E la bellezza appunto di viaggiare in bicicletta è proprio legato a questa possibilità che ti concede il muoversi lentamente. La prospettiva della sella è una prospettiva che veramente ti consente di entrare nella natura, nei percorsi, nei panorami con una prospettiva diversa, una prospettiva mediata anche dalla fatica. Certo. È assolutamente un qualcosa di positivo ogni senti, tu non sei in bici in questo momento, perché no, questo sento momento che strombazzano un po' e molti ascoltatori mi dicono mandate dei messaggi a chi va in bici, attenzione alle macchine, siate anche voi ciclisti prudenti. Tu sei arrivato fino in Cina, vero? Sì, bisogna stare attenti effettivamente, ecco, in bicicletta, perché cadere si cade, l'importante è rialzarsi, e quindi bisogna, diciamo, dare preferenza, soprattutto se si viaggia, non so, con la famiglia, in situazioni, diciamo, più protette, percorsi, come si diceva prima, il più possibile ciclabili. Ahimè, in Italia non ce ne sono moltissimi, però qualcosa c'è, molto di più di quanto non si possa credere. Soprattutto bisogna andare a cercarseli un po' in Alto Adige, ecco, per capirci, verso il nord d'Italia, però anche così nel Salento, anche diciamo un po' a spot, ci sono delle realtà, delle regioni, l'Emilia Romagna e anche molte altre che stanno, diciamo, lavorando in questo senso. Quindi l'ideale, Alberto, anche la bici è ricerca, Chiudiamo questa trasmissione, ormai siamo arrivati al termine. Io ringrazio Fabio Vedana, Alberto Fiorin, il dottor Franco Confalonieri, ringrazio voi che ci avete chiamato, telefonato, raccontato. Noi ci sentiamo domani, grazie ai miei tre ospiti, grazie a voi, noi ci sentiamo domani con Questa casa non è un albergo. Buona giornata. Essere e benessere.